Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e buona settimana, una settimana lunga che affronteremo insieme con i consigli di essere e benessere, quindi seguitemi, iniziamo bene, avremo dei problemi da risolvere, le decisioni da prendere, gli appuntamenti da ricordare, nulla di nuovo, questo è il menù, lo prendiamo in blocco e cerchiamo di affrontarlo a mente fresca, aggettivo che vorrei tradurre con energia, ottimismo, serenità. Se questo è l'obiettivo, cerchiamo di capire se siamo nelle condizioni di raggiungerlo e soprattutto se abbiamo tutto l'occorrente per farlo. Qui in studio con me il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno dottor Speciani, bentornato. Buongiorno a tutti voi. Beh, intanto sono le 11, quindi fondamentalmente già è un orario in cui possiamo già attivare alcuni dei temi di questa trasmissione di oggi. La prima cosa che viene da chiedere, ad esempio, se le persone che ci stanno ascoltando hanno una sensazione di fame. Perché la fame è davvero un segnale estremamente importante. Dobbiamo capire, ad esempio, se in questo momento hanno voglia di prendere qualcosa, si sentono con un'energia bassa o sono un'energia alta, quindi elementi che possono giustificare lo zucchero su e lo zucchero giù, che sono indice della funzionalità cerebrale. Ma la domanda che mi viene da porre è se ricordano immediatamente cosa hanno mangiato ieri sera, che già è per capire se la testa funziona o meno, no? La glicemia va tenuta in equilibrio perché funziona come davvero come un motore, quindi abbiamo davvero bisogno di capire che a quest'ora non è il corpo che ha fame ma è il cervello, e quindi dobbiamo capire come funziona. 800 24 00 24, che cosa avete mangiato ieri sera a cena? Io lo so e piacerebbe anche al dottor Speciani, immagino, ma poi ve lo racconterò nel corso della trasmissione. Allora, la mente in questo momento dovrebbe essere fresca, pronta, sveglia, come suggerisce il dottor Speciani, pronta. E quando parliamo di mente ci affidiamo subito al professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, presidente di Assomensana, che è qui in studio con me. Buongiorno professore, noi siamo nelle sue mani. Il dottor Speciani ha detto che in questo momento è la mente che tiene un po' la bussola. Siamo da lei, nelle sue mani. Buongiorno a tutti. Sì, se paragoniamo il nostro cervello ad un motore, dobbiamo dire che questo motore gira a folle quando non è utilizzato. Ma nel momento in cui iniziamo a fare delle attività, ecco che ingraniamo la prima e così via. Addirittura ci sono momenti in cui il nostro cervello ha bisogno di andare in quinta spedita. E qual è la quinta spedita? Quando noi prendiamo delle decisioni. Che cosa succede? Il cervello deve attivare una serie di funzioni cognitive. I quattro pistoni del motore del cervello sono la memoria di lavoro, l'attenzione fondamentale, l'emotività e poi anche il ragionamento. Quando noi ragioniamo, che cosa facciamo? Attiviamo tutta una serie di aree cerebrali. Innanzitutto ragioniamo con le aree frontali e le aree parietali, che sono posizionati sopra la fronte e sopra la nuca. Poi abbiamo anche a che fare con la motivazione, perché dobbiamo essere motivati a mettere in campo tutta questa energia, per cui chiamiamo in causa lo striato ventrale e la corteccia orbito frontale. In più dobbiamo anche fare i conti con la nostra emotività. È quella, certo. È quella, certo. Infatti ci sono degli studi che indicano come le decisioni vengono prese in modo corretto o errato in funzione anche dell'emotività che in quel momento si sta provando. Uno studio classico sui piloti d'aereo mette in evidenza come gli errori causati prima del decollo sono dovuti proprio allo stato emotivo dei piloti, all'irritazione, alla frustrazione, allo stress a cui sono sottoposti, perché devono fare velocemente il loro lavoro e quindi, certo, possono sbagliare. Allora, proviamo a vedere se il nostro motore, il nostro cervello parte bene oppure se è un po' ingolfato. Dobbiamo solo girare la chiavetta, vai! Vede? Vede che alla fine è un po' come me. Alla fine poi parto, decollo. Alla fine va. Vedi? Allora, partiamo subito. Abbiamo girato la chiavetta, professor Iannoccari. Vediamo se riusciamo a fare un esercizio per metterci andare in quinta? Sì. Benissimo. Allora vi propongo un esercizio che richiede il ragionamento. Ascoltate attentamente e date la soluzione a questo quesito. Marco incontra la suocera dell'unica figlia di suo suocero. Come la chiama? Marco, vedo Filippo Auregi che regge la parte tecnica, il desolato. Allora Marco incontra la suocera. Lei che cosa ha mangiato ieri sera che ha già la faccetta io sveglia? Io lo so perché ho sposato una figlia unica, quindi mi è facilissimo rispondere a questa domanda. Invece noi spremiamo le meningi. Dottor Speciani, questo è un tipo di movimento che non si vede ma che si sente e direi rende. Non solo pesi, corsa o piegamenti, si possono consumare calorie anche risolvendo cruciverba, facendo il sudoku o ricomponendo puzzle. Lo sostiene una ricerca di Tim Forrester. Secondo Forrester e colleghi, allenare la mente con l'enigmistica consente di bruciare 90 calorie l'ora. Allenando la mente si consumano quindi più calorie di quelle contenute in un biscotto al cioccolato, 56 in media, o un dolcetto alla crema, 57. Secondo l'esperto, il cervello richiede 0,1 calorie ogni minuto semplicemente per sopravvivere. Quando si fa qualcosa di impegnativo, quindi, come un puzzle o un quiz, si è in grado di bruciare 1,5 calorie ogni minuto. Secondo gli studiosi, il potere dimagrante è nei neuroni che trasmettono messaggi al corpo. Per poter svolgere tale compito, infatti, i neuroni utilizzano 3/4 del glucosio e 1/5 dell'ossigeno del sangue. Dottor Speciani, ragionate e un po' bruciate. Sì, si brucia un po', però ecco, voglio dire che 90 calorie per un'ora di ragionamento è un decimo di quello che uno fa, come uno fa una corsetta, ma leggera, proprio di quelle quasi, leggerine. Quasi ne consuma senza quasi, muoversi. Ne consuma 10 volte di più, quindi poi dobbiamo fare un po' di riflessioni su questa cosa, perché devo dire che nessuno è mai dimagrito semplicemente ragionando, certo aiuta. Soprattutto vorrei dire, ragioniamo, usiamo il cervello in modo sereno. Se una persona inizia a riflettere o a giocare col cervello in modo attivo e contemporaneamente litiga con la suocera, la moglie o l'amico, ecco che attiva il cortisone proprio, e quindi annulla assolutamente tutti i benefici possibili di questa situazione. Dobbiamo effettivamente capire che ci sono i segnali che sono importanti, sono gli elementi fondamentali, e un segnale bello è mettersi a riflettere, usare la testa non solo per prendere le decisioni, ma anche per tenerla attiva. Sappiamo oggi con certezza che i segnali sono importanti. Infatti lei, dottor Speciani, come segnale ai nostri amici che ci stanno ascoltando, ha proprio chiesto di rispondere. Come avete fame adesso? Certo. Avete voglia di qualche cosa? E che cosa avete mangiato ieri sera? Che è un esercizio un po' di memoria, professor Iannoccari. Ma la dice lunga, perché il rifornimento che noi utilizziamo si traduce anche in prestazioni mentali e fisiche di un certo livello. Beh, anche perché ieri, poco fa, pochi istanti fa, Iannoccari ha parlato dell'attenzione come uno degli elementi importanti. Ma quante cose ci passano davanti senza che riusciamo neanche a rendercene conto? Cosa ho mangiato ieri sera? Ma io lo so perfettamente, riesco a riconnettere molto bene, però è un esercizio anche per ricordarsi che ogni cosa che facciamo merita di essere vissuta in maniera positiva. Questo è un altro degli elementi che tornano poi a riattivare la parte motivazionale, l'emotività, professore Iannoccari. Certo, l'emotività, infatti le esperienze che noi viviamo con uno stato emotivo intenso sono ricordate più facilmente di quelle che invece non hanno questo tipo di attivazione. Ci siamo presi un po' di tempo per trovare una risposta all'esercizio suggerito dal professor Iannoccari. Lo ripetiamo: Marco incontra la suocera dell'unica figlia di suo suocero. Come la chiama? Allora, alcuni ascoltatori mi hanno risposto moglie, alcuni mamma, alcuni non la chiama perché non la conosce. Professor Iannoccari, intanto nell'attesa di sentire magari un paio di ascoltatori che si sono prenotati all'800 24 00 24, c'è anche una zia inaspettatamente. Allora, intanto, chi non è riuscito? Ad esempio Filippo Auregge ed io possiamo dichiararlo, no? Forse perché Filippo sta pensando di toccare tutti i pulsantini che hanno lì dietro, e io per parlare con voi, ma è una scusa. Che cosa dobbiamo pensare? Bene, intanto se siamo riusciti in 15 secondi abbiamo un'ottima capacità di ragionamento. Se siamo riusciti nell'arco di un minuto, la nostra capacità è buona. Al di sopra di un minuto dobbiamo allenarci. Che cosa possiamo fare? Sì. Bene, innanzitutto capire se abbiamo perso la consegna, cioè se abbiamo perso le istruzioni del problema. In quel caso dobbiamo lavorare su una memoria speciale che si chiama memoria di lavoro, perché gli elementi sono andati via. Diversamente, se abbiamo ricordato le istruzioni... Che è come la RAM dei PC, come la RAM del computer, uguale. Perfettamente, uguale. Funziona solo nel momento in cui ci serve. Se invece, pur ricordandola, non abbiamo risolto l'enigma, possiamo fare altri esercizi. Quindi, allora, per persone cocciutamente in difficoltà come me, lei se la ride, eppure ieri ho mangiato minestra di verdura buona, con dentro il riso integrale, poi ho mangiato la frutta, poi ho preso anche una torta di mele che ho fatto io con le mie manine, con uvetta, noci, nocciole. Nonostante questo, nonostante un'ottima colazione con pane integrale, miele, frutta, eccetera eccetera, sono qua, io la risposta non ce l'ho. Che cosa devo fare? Vogliamo provare con un esercizio? Dai, proviamo. Bene. Voi non la vedete, ma sta tirando fuori dei gambali di scaldamuscoli, delle cose di questo genere. Allora, dai, noi siamo pronti. Per chi non è riuscito a trovare la soluzione, vi leggo una sequenza di numeri. Ditemi i numeri che seguono questa sequenza. Sì. 2, 3, 5, 8, 12, 17. Quale numero segue il 17? 2, 3, 5, 8, 12, 17, quale numero segue il 17? Questa almeno la so leggere. Gianfranco ci chiama da Napoli, 800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno. Lei l'ha risolta? Sì, è il 23. Subito. Perfetto, benissimo. Bravissimo Gianfranco, perché anche la prontezza racconta, vero? Assolutamente, sì. E senta, invece quella di Marco che incontra la suocera dell'unica figlia di suo suocero? La mamma. Esatto, fantastico. Ma Gianfranco ci deve dare lezioni. Ma ha già fatto un corso. Fare anche un quiz pure io. La suocera dell'unica cognata di tuo fratello. La suocera dell'unica, non lo faccia a me, dell'unica cognata di suo fratello. Lei la sa la risposta? Sempre la mamma. È uguale. Al contrario. Bravo, bravo Gianfranco, grazie per essere stato con noi. Complimenti. Un piacere. Allora, intanto ci ha raggiunto un amico di Essere Benessere che è il nostro Enrico Ruggeri. Ciao Enrico. Buongiorno. Io ho chiesto a te di darmi una mano perché qua mi spiazzano, sono tutti bravissimi. Ma tu fai un po' di allenamento mentale? Ma io sì, a modo mio sì, tipo per addormentarmi lo faccio. Quando sono a letto, invece di contare le pecore, conto, dipende, ogni giorno, un giorno conto tutti i compagni di classe che avevo alle medie, un giorno conto, non so, tutti i giocatori che hanno giocato sia nell'Inter che nella Roma, il giorno dopo, insomma, cerco durante la notte di ricordarmi delle cose, è una roba che mi diverte. Ti diverte e quindi il tuo momento magico è prima di andare a dormire. Sì, esatto. Professor Iannoccari. Beh, direi che... Adesso non dica sì. Che è bello perché Enrico Ruggeri, perché se l'avessi detto io mi avrebbe detto deve impegnarsi di più. Vada. Sì, nonostante lo stimi molto. Beh, devo dire che innanzitutto credo che abbia una memoria prodigiosa per ricordare tutti questi dettagli. Ecco, se li ripete tutte le notti, lo credo che ve lo ricordi. Ma poi cambia, per cui prende sempre ambiti nuovi. Beh, direi che possiamo aggiungere, se lo vuole, anche il ripasso della giornata, le persone che si sono incontrate durante il giorno, che cosa si è fatto, se si è letto qualcosa, se si è seguito un programma. Quindi memoria a breve termine. Sì, che poi rinforza la memoria e diventa a lungo termine, per cui sarà facile ricordare l'indomani che cosa ho mangiato oggi. Noi vogliamo oggi parlare di ragionamento, ma anche di creatività. Allora, del pensiero laterale, direbbe il professor Iannoccari. Allora, se Enrico, tu sei pronto, vogliamo un po' testare la creatività. Voi artisti siete molto creativi. Allora, questi sono gli spunti suggeriti dal professor Iannoccari. Descrivi conseguenze possibili se l'acqua del mare fosse dolce anziché salata. Via col pensiero laterale. Via Ruggeri? Sì. Beh, intanto meno siccità, meno sete, una diversa fauna ittica e il quando uno riemerge dicendo sono andato sott'acqua e ho bevuto, lo farebbe con il sorriso sulle labbra. Allora, se gli alberi parlassero, Enrico? Ma gli alberi parlano. Beh, aumenterebbero i sensi di colpa, perché ci direbbero guarda come mi stai trattando, va che tuo figlio mi ha strappato due foglie ieri e non te l'ha detto. Quindi sensi di colpa. La neve, se la neve fosse zucchero filato? Beh, ulteriore festa per i bambini e i genitori separati che vanno a prendere lo zucchero filato ai figli e li devono riportare alle 6 del pomeriggio, spererebbero ancora di più nella neve. Enrico, professor Iannoccari. Originalissime. Originale, quindi noi proponiamo anche agli ascoltatori di Essere Benessere, metteremo naturalmente questi spunti e anche le risposte che ha già dato Enrico sul nostro sito, fatevi ispirare. Enrico, ti aspettiamo qui in carne e ossa. Sarà fatto. Grazie. Tantissimo. Ti abbraccio. Arrivederci. Buona giornata. Arrivederci. Abbiamo Giuseppe che ci chiama da Napoli. Buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno a lei, Giuseppe. Allora, volevo porre questo quesito. Contrariamente a quello che potrebbero essere le cose che diceva il professore, cioè vale a dire quella sensazione di fame, di carenza di energie, probabilmente di zuccheri, questo non mi succede, io faccio un lavoro abbastanza intenso, non mi succede nell'orario tipo quest'ora della mezza mattinata, ma stranamente la sera sul tardi, anche a volte dopo aver cenato, nel senso che quasi la necessità di assumere degli zuccheri. Questo contrasta un attimo con quello che sarebbero i principi di che gli zuccheri andrebbero assunti in condizioni di necessità, di inattività da fare, da svolgere, piuttosto che quando si fa a riposo. Non ho consultato mai un dietista, un dietologo, perché penso che non sia legato ad un aspetto alimentare, dietologico, ma forse a qualche altro aspetto di natura psicologica. Certo. Che non, e questo era... grazie Giuseppe. Ma direi che ci sono tutti e due gli aspetti. C'è sicuramente un aspetto psicologico emotivo, talvolta arriviamo alla sera e il cibo diventa elemento simbolico piuttosto che non elemento di nutrizione. Però è anche vero che, occupandomi spesso di persone che hanno invece problemi di relazione con il peso, la fame serale, la fame notturna è comunque uno degli elementi principali da ricercare su una prima colazione non completa. Ad esempio una colazione anche ricca ma fatta solo di carboidrati, un po' come stava rischiando se non avesse messo dentro le nocciole, le mandorle, anche Enrico. Nicoletta, può portare talvolta a queste fami serali. Quindi è vero che dobbiamo da un lato cercare anche i simbolismi psicologici, però dall'altra tenere da conto molto bene la parte biochimica, che è uno degli elementi più importanti. E poi voglio dire una cosa che riprende una ricerca uscita proprio da pochissimi giorni sul che conferma questa cosa. Cosa che noi sosteniamo anche in un libro che ho portato adesso a Nicoletta, proprio da leggere. Che è prevenire e curare la depressione col cibo. Esatto, quindi quelle che sono le interferenze da questo punto di vista, c'è una ricerca uscita da pochi giorni fa che testimonia come è importante rispetto ad esempio all'ingrassamento, alla funzione, l'orario, cioè ancora i segnali che noi diamo all'organismo. Quindi gli orari in cui noi mangiamo i nostri cibi, purtroppo in Italia siamo arrivati ad avere la cena come elemento dominante anziché la prima colazione, come abbiamo avuto per 800.000 anni nella nostra storia fondamentalmente. E quindi vale forse per mantenere ad esempio il peso e il rapporto, quello che diceva Iannoccheri prima, quindi sudoku alla sera, no? Al posto di mangiare la sera dobbiamo fare il sudoku, così almeno ci svegliamo al mattino con la fame giusta. Angela ci chiama dalla provincia di Roma, 800 24 00 24. Benvenuta Angela. Buongiorno. Il mio sistema per allenare la memoria è quello, mi sto cimentando allo studio della lingua inglese ed è una cosa che mi prende molto, perché noto che insomma la memoria viene ben allenata in questo. Professor Iannoccheri, Angela si allena con una lingua straniera, è sicuramente una buona idea perché mette proprio in moto la mente. Consigli per chi da adulto deve imparare una lingua straniera? Ci sono persone più portate di altre, ma comunque la difficoltà, almeno iniziale, c'è. Professore. Beh, affrontare l'apprendimento di una lingua straniera in età adulta è un ottimo esercizio perché richiama in causa più funzioni cognitive, nel senso che nel momento in cui approcciamo una nuova grammatica, una nuova fonetica, dobbiamo innanzitutto prestare massimamente attenzione alle nuove regole. In più andiamo a costruire una parte delle aree deputate al linguaggio che prima non c'erano e quindi richiede uno sforzo cerebrale intenso. Inoltre deve anche saper tradurre il pensiero dall'italiano alla nuova lingua straniera, quindi Angela fa benissimo ad allenare la sua memoria. Sicuramente quello che è il vantaggio principale è che apprendendo una nuova lingua noi andiamo ad allenare una delle due gambe della memoria che è l'attenzione. Quindi sicuramente si trovano dei vantaggi poi anche a livello mnemonico. Ci sono dei trucchetti? Per apprendere... Beh, la difficoltà principale... Oltre all'olio di gomito, come si dice. Sicuramente, quello ci vuole. Questo lo do io come consiglio, sì. Che è semplice. Ma lei cosa ci dice? Beh, suggerire di avvicinare le parole straniere a quelle italiane, cioè trovare delle similitudini tra la parola che non conosciamo e quelle che invece abbiamo nel nostro magazzino di memoria. Quindi in questo modo è possibile con delle, diciamo... con un avvicinamento di come si esprime una parola, riuscire a memorizzarla meglio. Cercano un po' dei ganci, come sì. Sempre. Essere e benessere. Prima regola dell'improvvisazione, fare tesoro di tutte le informazioni. Se qualcuno dice una cosa, tu segui l'idea, non negarla. D'accordo, giusto, capito? Mi sembra buono, una furbata. E voi seguite la nostra proposta, oggi parliamo di ragionamento. Tendenzialmente, quando noi parliamo di cervello, mente, allenamento mentale, ci viene subito istintivo parlare di memoria. In realtà c'è di più e c'è dell'altro. Professor Iannoccari. C'è di più e c'è dell'altro. Intanto la memoria, si dovrebbe parlare di memoria visto che ne abbiamo più di una dozzina, ma è una parte della nostra attività mentale. Ci sono tante altre funzioni che hanno pari dignità della memoria, ma c'è una sorta di equazione: più memoria uguale più intelligenza. È molto apprezzata, soprattutto in un periodo in cui tendiamo ad utilizzarla sempre di meno perché abbiamo i supporti esterni che ci aiutano, le agende telefoniche piuttosto che i computer, i palmari, eccetera. Per cui, ecco, l'argomento di oggi, che è quello della presa di decisioni, quindi del ragionamento, è fondamentale. Noi lo facciamo sempre, noi ragioniamo sempre, anzi addirittura la maggior parte delle nostre decisioni vengono prese in modo istintivo, cioè noi non possiamo ragionare su ogni decisione perché altrimenti ci sarebbe un immobilismo mentale. Per cui molte delle nostre attività vengono prese, delle decisioni vengono prese in modo automatico. Anzi, addirittura, quando noi ragioniamo su dei termini, non siamo oggettivi come vorremmo credere, ma c'è molto della soggettività. Ad esempio, uno studio classico di qualche anno fa metteva in evidenza come i medici sceglievano una terapia farmacologica nel modo in cui veniva presentata. Se gli si diceva, con questa terapia farmacologica il 70% delle persone sopravviverà, oppure il 30% di che si sottoporranno a questa terapia moriranno, loro sceglievano la prima soluzione, pur essendo risultati identici. Per cui in qualche modo noi possiamo anche pilotare. Dottor Speciani, lei cosa ne pensa? Lei che è un dutour. Direi che l'induzione dal punto di vista del marketing lavora tantissimo su questa cosa, tristemente anche nel campo medico e sanitario. È vero comunque che la parte di ragionamento è fondamentale. Tutto sommato uno dei motti più importanti, io ho fatto il Boy Scout quando ero piccinino e ricordo perfettamente l'idea del estote parati, che vuol dire siate preparati, che doveva essere messo in pratica, cioè diceva tu facevi la tua camminata, la tua attraversata di una montagna e c'erano i capi scout che ti dicevano dunque prova a ragionare, se dovesse staccarsi un masso sulla sinistra dove ti rifugieresti, se dovesse improvvisamente ripare il torrente che cosa faresti, cioè una somma di situazioni non tutte così tragiche o drammatiche per carità voglio dire, però che ti mettono di fronte a delle situazioni imprevedibili e quindi ti obbligano a fare delle scelte. Quando inizi ad essere allenato è anche divertentissima questa cosa, la puoi gestire per tenerti sveglio mentre vai in macchina, la puoi gestire in tutte le situazioni. Questo è un esercizio che funziona, professor Iannoccari, e che possiamo suggerire non solo ai bambini che stanno facendo i Boy Scout, ma anche a chi l'ha fatto ormai tempo addietro e che vuole tenersi allenato, pronto al ragionamento, inserendo anche quel pizzico di creatività che rende il ragionamento, no, efficace. Ancora più produttivo. Sì, effettivamente. Beh, intanto, come diceva il dottor Speciani, quando noi ragioniamo e apprendiamo delle nuove strategie di risoluzione di problemi, ci sentiamo anche più efficienti, no? E ci piace sentirci efficienti. Per cui, quando troviamo soluzioni, funziona così. La creatività ci dà una grandissima mano. La creatività è il supporto che viene dato dall'altro emisfero cerebrale, quello che utilizziamo a volte di meno, che è l'emisfero destro, che come se fosse l'altra mano ci aiuta ad affrontare i compiti in un modo completo. Sì. E questo lo avvertiamo quando per esempio abbiamo l'insight, cioè un problema che sembra irrisolvibile e noi riusciamo a risolverlo bene, anche in un periodo in cui non stiamo ragionando più su quel processo. 800 24 00 24 se volete confrontarvi con noi, suggerirci anche come state facendo dei test per allenare proprio la vostra mente. Oggi ci focalizziamo su ragionamento e su creatività, sembrano opposti ma uno presuppone l'altro, deve esserci per non diventare troppo rigidi o troppo con i piedi troppo, cioè, sulle nuvole. Dottor Speciani, mi è molto piaciuto cosa ha detto Iannoccheri sul senso di completezza quando queste cose vengono fatte. Effettivamente viene in mente quelle che sono, dal punto di vista creativo, le metafore necessarie per aiutare le persone nella mia pratica clinica a capire alcune situazioni patologiche, no? Ne cito una delle più classiche: le vertigini da cervicopatia. Le persone escono magari dall'ospedale con una diagnosi di vertigini essenziali, che vuol dire che non c'è una causa specifica, non gliel'avete trovata, e allora vengono a chiedere a dire: ma perché, cosa succede? Allora tu provi a spiegare che è come se tutto sommato, cioè trovi una metafora di spiegazione e spieghi che a livello cervicale ci sono delle, come delle, fossero delle canne per innaffiare il giardino, che passano dentro le ossa della cervicale e arrivano al cervello, e uno a quel punto rappresenta e gli spieghi che muovendo la testa in modo particolare si piegano, come quando tu stai innaffiando il giardino e plof, ti si gira una canna dietro un muretto e improvvisamente l'acqua non esce più. Ecco che di fronte ad una semplificazione metaforica, quindi un esempio che risiede in una parte di memoria fondamentale, le persone, come dire, si tranquillizzano, placano l'ansia, cioè improvvisamente un elemento che è non chiaro diventa chiaro e comprensibile. Abbiamo Antonio che ci chiama dalla provincia di Pordenone e Carla dalla provincia di Frosinone. Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io chiamavo per porre la vostra attenzione come faccio io per stimolare la memoria e la mente in genere. Sì. Io sono istruttore di karate. Sì. E nel karate, nella forma del karate, non nel combattimento sportivo, quello fra due contendenti, c'è la pratica dei kata. I kata sono un combattimento contro un avversario immaginario, però sono codificati e hanno determinate tecniche che vanno fatte in sequenza, aumentando, sì, calando la velocità, alzando e abbassando l'assetto del nostro corpo. E inoltre, quello che fa la destra lo deve fare anche la sinistra, per cui c'è questa bilateralità e questo sviluppo della memoria nel ricordarli. Nello stile di karate che faccio io ce ne sono oltre 60 e ricordarli tutti è veramente dura. E quindi dal gesto si arriva alla mente. Grazie Antonio. Professor Iannoccheri, la sequenza, quindi... La sequenza, quindi la nostra memoria procedurale che deve seguire uno schema complesso articolato e rispettare le esatte posizioni. In più qui abbiamo una capacità meditativa che deve essere tenuta in considerazione. Poi è piaciuto molto il termine bilateralità. Effettivamente, quando noi utilizziamo entrambe le parti del corpo abbiamo un grosso potenziamento. Infatti uno dei suggerimenti che io do è di utilizzare la mano controdominante per fare le cose solite che facciamo. Ad esempio, se siamo destrimani, usiamo qualche volta la sinistra per fare piccole cose, piccole ad esempio cose. Al mattino solitamente io sono mancina, mi lavo con la mano sinistra e da domani proverò invertire la mano destra e così una serie di altre attività. Farti la barba con la mano destra, poi fai la sinistra e vai a lavorare tutto tagliato. Ma che consigli dà? Per chi non si fa la barba può usare, esatto, ad esempio. Beh, ma non avete poi, anche quelli elettrici? Esatto, brava, con gli elettrici vedi, siamo si risponde salti. Da solo perché prontamente ha capito che dicendomi così ha ragionato rapidamente, ha detto in effetti Carla dalla provincia di Frosinone, ma vede cosa mi tocca fare con questi due? Buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, è in linea Carla, buongiorno. Benvenuta, venga anche lei. Ok, grazie. Senta, io sono un insegnante di scuola superiore, sì, e alleno la mia memoria con delle sequenze di numeri, ricordando le targhe automobilistiche, ma soprattutto con l'orario dei docenti. Praticamente noi siamo un 110 docenti dell'istituto, sì, e io ricordo benissimo l'orario di tutti i docenti, l'orario di entrata, di uscita dalle varie classi, ma anche quello degli anni precedenti. E quindi tutti, insomma, mi prendono un po' in giro per questa cosa, perché tutti consultano l'orario, mentre io dico no, sta in terza B, no, in seconda A e così via. Però la cosa strana... Senta, ma adesso in terza B chi c'è? Sì. lo so, però... Mi dica solo il nome, mi dica cosa stanno... di italiano. Cioè, stanno facendo italiano, mentre in quarta C cosa stanno facendo? In quarta C... E economia aziendale. Economia aziendale. Sì, e quindi... che è la mia materia poi. Allora, io però volevo dire, oltre questo, io mi sento un po' limitata perché non ricordo le cose che dovrei ricordare. Eh cioè, sì, perché occupa stessa... tutta sta cosa. Quel compleanno del marito, non lo so, una cosa del genere. No, tipo le cose che sono obbligata a ricordare. La spesa, vado e scordo tutto. Quindi è come se io non volessi ricordare, chiedevo proprio questo. Carla, secondo me Carla ha troppi professorario dei professori dentro, fuori, li lasci lì e pensi alle mele, alle pere, a delle cose belle per lei, professor Iannoccari, ma è lei l'esperto. Beh, dottor Speciani, intanto l'ascoltatrice ci ha dato la chiave, cosa che non vorrei ricordare, no? Diceva, beh, per cui... conta molto il fattore motivazionale. Se io non ho piacere ad andare a fare la spesa, probabilmente torno a casa con la busta mezza vuota. Inoltre faceva riferimento a memorie diverse. Un conto è ricordare il planning degli orari scolastici, un conto è ricordare le cose da fare. Allora, sono due per cose questo diverse. Per questo vi daremo a grande richiesta, perché la memoria vediamo che è proprio un tasto su cui Dolens, vi daremo subito dei consigli, ma prima andiamo a sentire, ve lo ricordo, guardate alle 11.45 le informazioni sul traffico. Essere e benessere. E siamo ritornati qui. Carla ci chiama per chiederci in fondo un consiglio per ricordare le cose che non amo fare. Tutti noi dobbiamo ricordare degli appuntamenti, delle date che magari non sono tanto nelle nostre corde, tocca anche farlo. Io ad esempio me le appunto, però poi dimentico dove le ho appuntate. Ma professor Iannoccari, lei ci dà sicuramente un consiglio più intelligente. Intanto quello la memoria delle cose che si devono fare in futuro si chiama memoria prospettica ed è un tipo asse di memoria. Come possiamo fare? Nel caso di Carla, lei ha già un ottimo casellario che è il piano degli orari degli insegnanti e può immaginare di incasellare negli orari, sì, va bene, le cose che deve fare durante la giornata. Per esempio prende la prima A, incasella in base agli orari le cose che deve fare poi durante il giorno, quindi prendere le cose che amiamo ricordare per agganciare, esatto, anche quelle meno io credo gradevoli. Che più che le cose proprio le modalità, cioè una volta che una persona impara una modalità che per lei è questo planning scolastico, sì, che ormai è consolidato da diversi anni, una griglia proprio, esatto, c'è una griglia, allora se quella è la tua griglia usala, mettici la mela, la pera e il carciofo, sì, al posto della prima B, della seconda C e della terza D. Quindi noi dobbiamo cercare di trovare, questo lo faremo con una puntata in cui invito già il dottor Speciani e il professor Iannoccari, qual è la nostra griglia. Ciascuno ha la sua. 800 24 00 24. Sono molto felice quando mi chiamate. Vincenzo da Catanzaro, benvenuto. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione, sperando che si senta la linea perché è un po' disturbata. Voi mi sentite? Noi la sentiamo bene, forte e chiaro. Vincenzo, vada alla domanda, grazie. Perché ho tanti ascoltatori. Sì, sì. Guardi, io ho 52 anni, ho deciso di riprendere gli studi, mi sono iscritto a UniNettuno, a Scienze della Comunicazione. Bravo. Sto anche sostenendo gli esami, agli ultimi due ho avuto anche 30 lode. Bravissimo. Siccome però gli amici mi prendono in giro per questa soluzione, per questa ripresa di studi, perché dicono che ormai sia tardi, eccetera, volevo fare... Ma lei si ricorda quel programma magnifico? Non è mai troppo tardi? Alberto Manzi. Bravo, il grande maestro Manzi. Quindi Vincenzo, poi 30 lode. Lei che cosa vuole sapere, Vincenzo? Deve quasi insegnare al professor Iannoccari. Prende tutti e 30 lode. No, dico, ho fatto bene. Cosa devo rispondere a quelli che mi prendono in giro perché dicono che posso a quest'età magari la memoria... non si è più in grado di poter continuare questi tipi di percorsi. Allora vuole una risposta pronta, ce la dà il dottor Speciani. Assolutamente, bisogna rispondere con una metafora dicendo che quello che sei in grado di fare sul piano degli studi è assolutamente fattibile anche in un mucchio di altri campi, per cui la capacità di gestirti al meglio su più campi inizia a creare gelosia negli altri anziché immediatamente, cioè di che questa è una delle cose normali che stai facendo e vedrai che smettono di tediarti con delle argomentazioni di questo tipo. Questo dice all'università, ma questo è il minimo che io sto facendo. Livio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma buongiorno a lei. Sentite? Sì, la sentiamo. Sì, buongiorno. Ascolti, io avevo questa domanda. Qualche anno fa, con molto scetticismo, non lo consideravo, mi sono avvicinato al Sudoku. Sì. Per tenere la mente un po' così, diciamo, sveglia, perché bisogna anche ragionare molto, secondo me, facendo il Sudoku, no? Sì. Adesso mi sembra quasi... di non poterne più fare a meno. Livio. Esatto, che sono in uno stato di dipendenza, tant'è che mi sono ribellata a questa situazione e ho buttato tutte le settimane di Sudoku che ero portato a casa. Ma no! Che cosa ne pensate? Secondo, sì. Forse sono un pochettino simile al signore di prima. Io mi sono iscritto, ho 60 anni, sono iscritto l'anno scorso, 2012-2013, a ingegneria gestionale. Caspita. E va bene, sta andando bene. Così, forse merito anche un po' del Sudoku, professor Iannoccari? Sì, assolutamente. Tutti si iscrivono all'università, adesso mi iscrivo anch'io. Beh, è encomiabile. Intanto per smorzare i toni degli altri io farei autoironia. Certo. Cioè, non ho di meglio da fare, faccio l'università. Ecco. Il Sudoku sicuramente ha allenato quelle capacità che probabilmente già aveva il nostro ascoltatore di ragionamento e quindi lo ha facilitato negli studi. Se non si vuole più fare il Sudoku si può sostituire con altri giochi. Sempre su questo. Sì, cioè, sì, anzi, l'importante è variare, bisogna essere un po' creativi. E allora vediamo se è creativo il mio amico Giacomo Poretti. Ciao Giacomo. Ciao, buongiorno. Senti, tra l'altro, ammutta Muddica o Muddica? Muddica. Muddica, cioè spingi mollichina. Esatto, essendo in latino arcaico, come dice Aldo, è Muddica. Muddica, no? Certo. Senti, tra l'altro, no, lo dico perché con grande piacere, perché oggi tu sei nella mia città, Torino, al Teatro Colosseo. Oggi è l'ultima giornata a Torino, sì. Ah, fantastico. Sì. E poi è il 22 nella mia, però, che è Milano. No, sembra un promone a Giacomo, ma non vogliamo parlare di fare il promo a Giacomo, che non ha bisogno, ma vogliamo invece capire da Giacomo quanto è creativo. Sei pronto? Allora, sono pronto. Un uomo vive al 20° piano di un grattacielo, prende l'ascensore per scendere al pian terreno, ma non lo prende per risalire. Quali possono essere due motivazioni possibili? Mettiamo non il... Non potete fare la figura del cretino, no? Non lo prende per risalire perché vuol dimagrire. Bravo, perché scendendo al pian terreno si attivano dei muscoli che sono importanti nelle gambe. Esatto, e poi perché facendo le scale magari può incontrare la signora col cagnolino che scende sempre dalle scale. perché i condomini, come che i condomini non vogliono che il cane salga in ascensore. Vedi come se la cava bene Giacomo, Bravissimo, perché era difficile. Era veramente difficile questa prova. Lei cosa avrebbe detto, professor Iannocchi? Ma io avrei pensato che è un nano, ad esempio. Perché non ce la fa a scendere dalle scale? Non ce la fa poi a premere il tasto al ventesimo alto. E lei, dottor Speciani? No, è la stessa, ma lo dico perché in realtà molte di queste cose fanno poi parte delle barzellette storiche della nostra infanzia. Però, no? Però Giacomo è stato molto più creativo. Creativo. Giacomo, grazie per essere stato con noi. Noi mettiamo la tua risposta sulla pagina di Essere Benessere, perché poi inviteremo gli ascoltatori a scrivere anche altre soluzioni sul grattacielo e sull'ascensore. Bene, bene. Vuoi salutarci con un dicendoci qual è il segreto per rimanere creativi o con la mente sveglia? E pregare tanto l'Altissimo che ci conservi sempre bene. Grazie a Giacomo Poretti, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao. In linea con noi abbiamo la professoressa Daniela Lucini. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Associata all'Università di Milano e responsabile della sezione di medicina dell'esercizio Humanitas. Professoressa, chiudiamo in bellezza dicendo ai nostri amici che ci seguono da casa che la ginnastica mentale è utilissima. Bisogna scegliere anche naturalmente quello che si mette nel piatto, ma è importante anche muoversi. Il nostro cervello, dovendo scegliere, sceglierebbe l'aerobico o il bodybuilding, professoressa? Cosa sceglierebbe il nostro cervello? Ma dipende il cervello, se è il cervello di una signora, di un signore, di un ragazzo, di non so che cosa. Sicuramente quella che noi andiamo a scegliere dipende da tante cose. Forse però va anche tenuto presente la fatica che una persona fa e quindi magari sceglie una cosa meno faticosa oppure più faticosa a seconda di quello che gli interessa, ma anche tener presente qual è l'effetto che fa fare una determinata attività fisica sul nostro cervello. Sicuramente quando si fa un'attività di tipo aerobico, dove aerobica vuol dire cammino, corro, nuoto, vado in bicicletta, dopo il nostro cervello è molto più contento. Quindi il cervello ama l'esercizio aerobico e di questo poi parleremo proprio con la professoressa Lucini in una puntata in questa settimana, nei prossimi giorni, per aiutarvi a scegliere proprio l'attività fisica più adatta a voi. Grazie professoressa Lucini per essere stata con noi. A presto, arrivederci. Grazie al professore Iannocchi, al dottor Speciani, ce la faccio. Ce la faccio. Filippa Ureggi in regia, adesso gli è tornato il sorriso perché pensava che sforassi e invece no, riesco a salutare anche Laura Vanossi. Quante cose mi ricordo. Domani ricordatevi anche voi che io vi aspetto alle 11. Radio 24. La passione si sente. Essere e benessere.